Ieri sera la telefonata di Janine Nichols mi ha colto di sorpresa. Sono rimasto senza parole. Sta organizzando un tributo per Tim Buckley a New York. Ha chiamato per sapere se volessi partecipare e me lo ha chiesto così, senza girarci intorno. Ho di fronte un'ottima occasione per salutare definitivamente la California. Niente mi trattiene qui. Non ho un legame né qualche progetto musicale che possa avere una minima certezza all'orizzonte. Tutto ciò che ho è una cassetta di demo, quel cazzo di diploma di studio al Music Institute e qualche ricordo di un'infanzia vagabonda. Non sarebbe male gettarmi nella folle New York come ho fatto un anno fa. Quella città è magnifica. Continuerei a saltare da un appartamento all'altro dei miei amici e a fare miseri lavori pur di restare per sempre lì. Ma ora è diverso. Sono spaventato. L'idea di dovermi confrontare con qualcuno che sto cercando di lasciarmi alle spalle mi toglie il fiato. Ho preso un paio di giorni per pensarci e poi richiamerò Janine. Non è facile accettare, perché per me significa affrontare ancora una volta il ricordo di mio padre. Diciamo un altro tentativo di ricomporre i pezzi di una relazione che in fondo non c'è mai stata. È come quando ho conosciuto un suo amico, Lee Underwood, che ha suonato con lui e mi ha raccontato molte cose. Ed io volevo sapere com'era, cosa pensava, perché aveva fatto quello che aveva fatto. E roba del genere. Credevo, dato che Lee aveva suonato nei suoi dischi ed era stato in tour con lui, che il loro rapporto fosse intimo, del tipo musicale e spirituale. Mi ha detto che Tim mi amava molto e che sarebbe stata sua intenzione cercarmi quando fossi stato grande, che se ne andò solo per colpa di mia madre. Non sapeva che fosse incinta. Stronzate. Ma in qualche modo mi ha fatto bene incontrarlo. Ed ora devo solo decidere cosa fare: partecipare a questo tributo oppure no. Questo evento dice molto dell'amore che le persone provano per la musica che Tim ha creato, e per molti di loro in platea ascoltare me interpretare le sue canzoni sarà una sorta di vero e proprio contatto diretto con lui. È una responsabilità enorme che non sono sicuro di volermi prendere. Avrei potuto dire di no, avrei potuto fare finta di niente, ma so con certezza che non posso sfuggire a questo confronto che pende su di me come una sentenza. Ho accettato per chiudere un cerchio e fine della storia. Ho deciso di celebrare Tim Buckley, mio padre. Mi serviranno dei giorni per capire cosa è successo esattamente ieri sera. Il tempo di mettere piede a New York e ritrovare il feeling con la città e bam, sono finito dritto alla chiesa di St. Anne a Brooklyn. La sala era piena e spuntavano musicisti da ogni parte. No, non è stato facile, ma ho avuto il tempo di preparare per bene le cose. Mi ha aiutato Gary Lucas, con cui voglio collaborare al più presto, ed ho conosciuto Rebecca, ma ok, forse un'altra volta. Il concerto. A parte il fatto che quando sono salito sul palco mi hanno sparato in faccia un fascio di luce talmente forte che in quell'istante mi è sembrato di rinascere. Quello che ricorderò di sicuro è il silenzio tutto intorno. Un rispettoso silenzio che ha reso tutto così solenne. Papà, se fossi vivo, mi piacerebbe baciarti e dirti che va tutto bene. Ogni cosa che hai fatto è molto bella e non c'è una ragione sola per smettere di vivere. E penso che tu sia meraviglioso e che sei stato un folle a credere soltanto per un momento che l'arte viene dal dolore. E vorrei sorriderti, abbracciarti, se davvero credevi di amare la morte più di me. Ma ora ho smesso di cercarti. Molto tempo fa, quando ero un ragazzino, mia madre si sedette sul letto e mise su questo disco. Era la prima canzone in cui sentivo la voce di mio padre. Avevo forse 6 anni. La canzone era Once I Was. L'ho scelta per l'evento e fine della storia. Casa. Sento sulla mia pelle ogni vibrazione di questa città ed è una sensazione così forte da farmi credere che mi stesse quasi chiamando. Ci sono giornate in cui esco per New York solo per camminare e basta, per il semplice piacere di farlo. Ora devo solo sistemarmi per bene, ma nel frattempo posso contare sulle persone che ho incontrato al concerto. Janine è stata così gentile da prendermi come babysitter per il suo bimbo. In cambio guadagno qualche dollaro e posso suonare la sua magnifica Telecaster. Mi ha anche detto che posso tenerla in prestito per tutto il tempo che desidero. Ed io avevo proprio bisogno di una nuova chitarra, perché Gary Lucas è venuto allo scoperto e mi ha chiesto di entrare nella sua band. Così ora sono Mr. Jeff Buckley dei Gods and Monsters. È stato quasi naturale. Praticamente abbiamo iniziato a scrivere insieme da quando ci siamo incontrati per la prima volta, durante le prove del tributo a Tim. E c'è una strana alchimia tra noi, è innegabile. Lui suona le sue parti di chitarra ed io trovo sempre una linea melodica che si incastra alla perfezione. Ora stiamo buttando giù altro materiale. La dinamica è: io scrivo i testi e Gary le parti strumentali. Sperimentiamo un sacco e vengono fuori cose assurde, psichedeliche. La settimana scorsa ne abbiamo registrate 3 con gli altri ragazzi della band. E devo ammetterlo, non sono affatto male. So che Gary ha parlato con quelli della Imago Records. Sembra che siano interessati al progetto, ma non so fino a che punto. In realtà non so se troveremo mai qualcuno disposto a pubblicare queste canzoni. Sinceramente, non importa. Per ora voglio solo suonare dal vivo e divertirmi. Sto pensando seriamente di andare a vivere con Rebecca. Ha un appartamento tra la Allen e la Stanton. Dalle finestre del soggiorno si vede addirittura il ponte di Brooklyn. Sì, forse è un azzardo, ma mi basta sapere che c'è un legame tra noi. Quando avverto la tranquillità che mi dà la sua presenza e il suo continuo incoraggiamento, sento che le cose andranno bene. Ci aiuteremo a vicenda, ne sono sicuro. Ora inizio a diventare nervoso. Ok, lo dico chiaramente. Non credo che Gods and Monsters sia il gruppo giusto per me. Ho la sensazione che Gary voglia da me qualcosa che non posso dargli. Si è messo al comando della faccenda e conta di gestire ogni maledetto aspetto artistico. Anche il solo fatto di cantare e basta senza potermi esprimere con la chitarra mi manda fuori. Siamo tornati a suonare a Santen, un concerto che praticamente era uno showcase per quelli della Imago Records, ed io li vedevo tutti lì in prima fila, i loro maledetti rappresentanti. Col taccuino quasi prendevano appunti. Ecco la rockstar servita su un piatto d'argento. Ed io invece non mi sento pronto per questo. Credo che stia succedendo tutto troppo in fretta. Ho bisogno di rallentare e capire chi sono davvero. Non voglio che diventi come quando stavo a Los Angeles a 18 anni e suonavo in alcune band solo per cercare di fare soldi e scampare alla compilazione di quelle dannate domande di lavoro. La mia promessa è che non farò più parte di un gruppo fin quando non avrò davvero capito quale direzione prendere. Domani stesso ne parlerò con Gary e pazienza se per il momento non avrò canzoni originali da suonare. Prenderò in prestito qualche vecchio standard americano e troverò un modo migliore per gettarmi di nuovo nella mischia. My way with a sigh. can buy back all your youth when you're old. Friends when you're lonely are a peace to your soul. Nei mesi scorsi mi sono messo alla ricerca di tutti i piccoli locali nel Lower East Side qui a New York. Volevo suonare ovunque e qualunque cosa avessi in mente. Dopo tutto il casino con Gary Lucas e la band, ho capito davvero cosa voglio. È stata una sorta di idea dei vecchi tempi, voler esplorare fino in fondo il mio essere un cantante. Così mi è tornato in mente quando da ragazzino ho trovato nella soffitta di casa la chitarra acustica che mia nonna aveva comprato. Ed io strimpellavo. Ma soprattutto era come se provassi i miei modelli su di essa. Ecco, volevo ripartire da lì, da quella continua scoperta per tentativi, e sentirmi libero di esplorare. Questo mi sembrava il modo migliore per ritrovare la strada. Rebecca mi ha presentato un suo amico che conosce Shane Doyle, il proprietario del Cinei. Non è un locale come gli altri, non puoi telefonare e prenotare un tavolo, chiedere l'ultimo drink alla moda. Dentro c'è solo l'essenziale: tavole e sedie consumati disposti casualmente, un vecchio bancone, la marca di birra più scadente in città e una macchina per il cappuccino. Shane ha origini irlandesi, proprio come me. È bastato parlargli una volta e abbiamo trovato un accordo per un ingaggio. Così mi esibisco ogni lunedì con un set pomeridiano ed uno serale. E la cosa più assurda è che posso fare quello che voglio, senza un programma. Mando giù un sorso di vino, quando c'è. Attacco la chitarra e improvviso per 2 ore. Ed io non sto lì a pensare, mi getto in un brano e mi lascio trasportare senza sapere dove andrò a finire. È come per un maratoneta, che ad un certo punto non ne ha più, ma la testa gli dice di andare avanti e avanti ancora finché quello che fa diventa inconscio. A volte sono Nina Simone, un attimo dopo Van Morrison e poi ancora Dylan. Sono arrivato a prendere delle note che nemmeno sapevo di avere. Ok, non suono mie canzoni, ma molte delle persone che entrano non sanno nemmeno il mio nome. La cosa che ho sempre voluto fare prima di lasciare Los Angeles era suonare proprio in un luogo che fosse intimo fino all'inverosimile, veramente raccolto. E il Cinei è così: sei di fronte alla gente e niente ti separa. Alcune persone vengono per chiacchierare, altre per ascoltare, e a volte ci può essere davvero molto casino. Ma è una forza che ho sempre voluto ci fosse nella mia musica, nel mio cantare, nel mio suonare. Se non riesco a far avvicinare la gente, per me non c'è più motivo di andare avanti. L'ultima volta è successa una cosa pazzesca. Nel pieno del concerto è andata via la luce. Shane, correndo, ha acceso subito qualche candela ed io sono andato avanti con la chitarra acustica in un'atmosfera surreale. Nessuno è andato via. Sono rimasti tutti ad ascoltarmi. Testa confusa, come quando si esce da un sogno appena svegli. Ieri sera il mio amico Steve Berkowitz mi ha spalancato le porte del Supper Club. Sua maestà Bob Dylan in concerto di fronte a me. E mi sarebbe bastato questo per tornare a casa e avere qualcosa a cui pensare per giorni. E invece no, Steve mi ha accompagnato anche nel backstage e così siamo entrati nel suo camerino. Pietrificato. Io non sapevo che cazzo dire e infatti ha parlato solo lui. Fai un bel disco, ragazzo. Fai solamente un fottuto bel disco. Ed io non ho avuto il coraggio di rispondere, ero ancora abbagliato dalla sua grandezza. Ma il suo concerto è stata un'autentica illuminazione. E lì ho capito di cosa ho bisogno per dare corpo e anima alle canzoni che ho scritto. Voglio semplicemente un gruppo. Voglio sentire una vibrazione che nasce da un'unione. Voglio sentire un'alchimia, le persone, i corpi caldi, lui o lei, basso, batteria, qualunque cosa possa funzionare. Per me non c'è niente di più bello di un gruppo. Infatti tutta la mia musica preferita è stata creata da gruppi, e poi non sopporto affatto di restare sempre da solo. Credo di aver sconvolto ogni piano di queste persone. Ho distrutto tutti i loro progetti per chiedergli di aiutarmi con il mio. Ho trovato i musicisti. Mick Grondahl lo conoscevo da un po'. È un ottimo bassista e volevo a tutti i costi che facesse parte della band. Matt Johnson è più un colpo di fortuna. Ho fatto centro alla prima audizione. Restava solo di provare l'intesa del gruppo, così ci siamo chiusi in sala prove. E la prima jam session è scattato qualcosa. Da tre persone che non avevano mai suonato insieme è venuta fuori questa canzone, Dream Brother, una specie di mantra con una grandiosa esplosione finale. Ogni dubbio è andato via all'istante. Chissà cosa stanno pensando adesso i ragazzi. Li osservo ogni tanto. Nel giro di una settimana hanno abbandonato i gruppi in cui suonavano, hanno fatto le valigie ed ora sono qui con me a Woodstock per registrare il mio disco. Un aspetto affascinante di stare e aver firmato con la Columbia è la possibilità di lavorare in un posto come questo. Lo studio è una sala immensa e dentro c'è anche un appartamento. Viviamo qui ora proprio insieme, impariamo a conoscerci, suoniamo, ascoltiamo musica e passeggiamo nei boschi intorno. Sento che stiamo creando un vero legame emotivo. Abbiamo anche affittato un furgone. Lo prendiamo e ci andiamo in giro per ascoltare la cassetta con le prove delle registrazioni, per capire se le canzoni sono ok oppure no. La cosa magnifica è che questo posto è totalmente fuori da Manhattan ed è l'ideale per concentrarsi. È come una grande nave pirata. Non c'è nulla da fare se non governarla. Ma non ho un vero programma di lavoro. È un po' come al Cinei. Sono una lavagna bianca da riempire. Ed io non sto nella pelle, devo provare, sperimentare. Non posso fermarmi su ciò che ho fatto il giorno prima. Devo andare avanti e cogliere nuovi input, riscrivere le melodie e i testi se necessario. Sono un maledetto perfezionista, ma questa è la mia unica occasione. È tutto ciò che ho sempre desiderato fare. I'm deciso. Elimino dal disco Forgetter e butto dentro Surreal, anche se tutti quelli all'interno del palazzo della Sony saranno incazzati neri con me. Ovviamente avevano un bel piano per quella canzone. Per loro sarebbe stato il primo singolo del mio disco, ma capirebbero se gli dicessi che è per motivi personali che l'ho scartata. Quella canzone fa parte della mia storia con Rebecca, ed ora lei non c'è più, è finita. Ed io non devo darne conto a nessuno, tantomeno a quelli dell'industria delle star. Io ho perso la mia musa e loro pensano solo ad una strategia per portarmi al successo, ai loro meri interessi. Per fortuna tra poco sarò in giro con i ragazzi per le prime date del tour, e tutto questo per me non avrà più importanza, che mi dicono solo dove andrà a suonare e basta. Voglio stare su un palco. Eccola, la prima copia di Grace fra le mie mani. Passo così tanto tempo a lamentarmi che a volte dimentico quanto di bello sta accadendo. Sono orgoglioso del disco e di ogni singola nota che lo compone. Nessun rammarico. Dentro ci sono canzoni che ho scritto nel silenzio di una stanza molto tempo fa, quando chi era attorno a me credeva che fossero canzoni da perdente. Le ho messe nell'album per dimostrare che non lo sono. È un po' come dei ragazzini a cui per tutta la vita hanno detto di essere del nullità, e poi alla fine riesci a far capire loro che non è così, che meritano di essere conosciuti ed amati. E queste canzoni sono davvero me. Trasparente, triste, innamorato perso, distrutto. È vero romanticismo. E per romanticismo non intendo corteggiare o desiderare una donna. Niente del genere. Parlo delle posizioni emotive in cui sei, degli stati di devastazione che bruciano per giorni e giorni. Ma non vorrei che fosse percepito come un manifesto dei miei sentimenti più tristi. Grace è una reazione. I lost myself on the cold damn night. I gave myself on the misty light. Was in the tides where the strange light under my lilac tree. I made wine from the lilac tree. I put my heart in this receipt. It makes me see what I want to see. Be what I want to. I think more and I wanna think. I do things you never should. I drink much more and I wanna drink, because it brings me back you. Al di là della poesia, al di là dei miei fantasmi esorcizzati nelle canzoni, Grace è un invito a celebrare la vita, ancora e ancora, senza avere paura di niente e di nessuno. Nessun uomo, nessuna donna, nessuna guerra, nessuna pistola, nessuna fionda o freccia con cui le persone mirano al cuore degli altri. Perché alla fine ci sarà sempre qualcuno che ti amerà veramente. E si può raggiungere un vero stato di grazia solo attraverso l'amore di qualcun altro. Tutti sanno cosa significa creare un cosiddetto momento artistico, perché in realtà è solo umanità all'ennesima potenza e il linguaggio umano al suo massimo. And listen to me, I cannot see clearly. Is that ship coming to me? Se passi la notte a fare l'amore, sai esattamente cosa vuol dire mettere a nudo il tuo ego. Mentre esprimi te stesso collaborando senza parole in un momento che ha in sé un'energia che rinvigorisce. L'arte è così. E Grace è solo il suo frutto. Ciao Chris, sorpreso di ricevere questa lettera. Come vedi, tra una data e l'altra di questo tour infinito riesco ancora a trovare del tempo per sedermi e scriverti. Credimi, avrei voluto farlo prima, ma sono totalmente immerso in questa vita da nomade che a volte mi sembra di essere sospeso fuori dal tempo. Avevi ragione, andare in tour è esattamente come mi dicevi tu. C'è così tanto da scoprire, luoghi da visitare, persone da conoscere. Eppure di tanto in tanto sento il bisogno di isolarmi. Devo farlo, perché è già fin troppo stancante per il corpo e la mente dare il massimo sera dopo sera sul palco. Figurati anche solo uscire o incontrare poi tutte queste persone che hanno un pensiero per te, qualcosa che hanno preso dalle canzoni e che riflette la loro vita. E loro vogliono condividerlo, vogliono che tu lo sappia. Sì, è assolutamente gratificante, ma c'è un tale sovraccarico di energia che non ho ancora imparato a gestire. Però i concerti sono magnifici. Ogni giorno capisco di vivere esattamente per questo. Sai, poter afferrare tutta quell'umanità che vibra davanti a te è un dono indescrivibile. E poi Mickey, Matt e Michael sono fantastici. Viaggiare insieme ci ha reso davvero una famiglia. Ed io mi sento bene all'idea di affrontare questa avventura insieme a loro. A volte ci capita di parlare dei lavori di merda che avremmo dovuto fare se non avessimo avuto la nostra musica da far conoscere. Ed è innegabile, siamo fortunati, siamo fortunati. Ovviamente non è sempre così bello, spesso questo viaggio somiglia un po' ad un lavoro. Viviamo intere giornate fotocopie ed è paradossale se penso che visitiamo due città diverse ogni settimana. L'unica cosa che mi porto dietro ad alcuni posti è l'odore dell'asfalto che mi è rimasto appiccicato sulle scarpe. In realtà la cosa che mi pesa di più è l'atteggiamento della stampa. Hai letto cosa scrivono di Grace o una qualunque delle mie interviste? Devono tirare fuori ad ogni costo il nome di mio padre. Qualcuno mi ha accusato di aver rubato dalla sua musica. Sono stanco di questa storia, che si fottano. Non ho nessuna intenzione di prendere un'eredità che non mi appartiene. Sai cos'è successo a Chicago l'ultima volta? C'erano delle persone nel backstage dopo il concerto che mi sventolavano in faccia i dischi di Tim da farmi autografare. Non ha senso. Non c'è logica in una violenza simile. Sono arrivato a fumare della robaccia per sentirmi lontano da tutto questo. Ma a dire il vero, non è la mia unica distrazione. Ho conosciuto una ragazza, Johan. Suona il violino nel gruppo Spalla che ci accompagna. Ed è un totale mistero. C'è una strana forza in lei che mi ha rapito. Me ne accorgo quando la osservo chiusa nei suoi silenzi o nella concentrazione sul suo viso mentre suona. Forse sono già fottuto, amico mio, ho una nuova maledizione. Ok, credo di aver delirato abbastanza. Ti saluto, Chris. Ci vediamo a Los Angeles. Stammi bene e non mollare mai con la tua musica. Il tuo vecchio amico, Jeff. Come back to me if you lay at my side. Who need my mojo pain to keep me satisfied? Don't wanna whip for you, don't wanna know. I'm blind and tore through the wild doors floor. Memories fire to read my full soul. Beauty, yeah, love you so. Precious, precious silver gold, a burst the oyster fresh. Drop down with you the servant, pray for love. Burn again from the rhythm, so screaming down from heaven. Hey, dress, hey, dress, I'm there in your arms. No, I'm blind and tore through the wild doors floor. Memories fire to read my fall slow. Of you scar my love, give me more. Sin whips your opinion down my back, give me more. While it's you I'll wait in my life to see. While it's you I'll wait in my life to see. While it's you, it's you, it's you, it's you, it's you, it's you, it's you, it's you. It's you I search so out of hope. For you, don't wanna know. I'm blind and tore through to wild horses flow. Memories fire to read my fall slow. fare i conti con quelli della Sony. Vogliono sapere a che punto il nuovo disco ed io non so più cosa rispondere. Provo da giorni con la band le canzoni scritte in tour, ma non sono soddisfatto. C'è qualcosa che non va. Forse sono solo stanco. Da quando fare musica è diventata una professione non mi sono fermato mai. Ho sacrificato me stesso e parte della mia vita per essere dove sono ora. Eppure tornerei indietro per riprendermi quella normalità, quella spensieratezza con cui sono arrivato a New York per la prima volta. Quando non avevo niente e tutto era possibile. Sembra passato una vita, ma non tanto tempo fa c'è stato un momento in cui potevo suonare in un locale, imparare da quello che facevo, capire cosa significasse per me divertire il pubblico e divertirmi o annoiarlo. E il pubblico non sapeva chi fossi o che facessi. Avevo il prezioso e insostituibile privilegio del fallimento, del rischio, della resa. Mi piaceva, ed ora che è sparito mi manca. Ho bisogno di staccare da tutto. Voglio andare via. Questa casa non è poi così grande, ma viverci da solo la fa sembrare enorme. La cosa che adoro di più è il giardino fuori, all'ingresso. Non avevo mai avuto uno tutto per me, ci passo l'intera mattinata steso al sole. È così bello pensare e riposare. Immagino intanto la faccia dei vicini. Va tutto bene, ma devo ancora capire come funziona quella dannata lavatrice e smetterla di provare a dare fuoco alla cucina. Fortuna che Johan passa qui ogni tanto per darmi una mano. Avevo dimenticato il suono del silenzio della periferia. Memphis in confronto a New York ha una dimensione più umana, niente caos, nessuna vita frenetica. Vado in giro in bicicletta. L'ultima volta che l'ho fatto ero un bambino. E poi c'è uno zoo qui vicino, proprio dentro il parco. Ed io mi diverto come un matto a guardare quelle piccole scimmie tutto il giorno. Giù all'angolo, per caso, ho trovato un locale. Sono entrato per una birra e invece mi hanno dato uno spazio dove suonare. Mi pago tutte le cene con uno show a settimana nell'anonimato più totale. Immagino che a New York mi staranno tutti accusando di aver gettato la spugna, ma non mi importa di quello che pensano. Questo per me era l'unico modo di rivendicare la mia libertà. Voglio solo cose semplici. L'ispirazione viene dalla vita e a me sembrava di non vivere più. Adesso anche le canzoni sono tornate a nascere spontanee, senza nessuna forzatura. Le ho messe su una cassetta e le ho inviate alla band. Sono bozze in bianco e nero e loro porteranno i colori. Li aspetto qui alla fine del mese per le prime prove. Registriamo il nuovo disco e non vedo l'ora di rivederli. Va tutto bene. Sento che questo è l'inizio di un nuovo giorno per me. fine è l'atto di creazione. Creare il da farsi con piccoli fasci di luce, quella. Questi sono i concerti, questi sono gli spettacoli dal vivo. Ma la vita sta nel mezzo. Questo è tutto ciò che ho capito. E cosa voglio che la gente riceva dalla mia musica? Qualunque cosa voglia, qualsiasi cosa gli piaccia. Qualcuno una volta mi ha chiesto cosa volessi fare ed ho detto solo che volevo restituire ciò che ho ricevuto ed incontrare tutte le persone che lo stanno facendo. Essere nel mondo veramente. Somebody over to you. But it's not a cry that you hear the night. It's not somebody who's seen the light. It's cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.